mondo, non proprio per la mia famiglia. Incazzato con la vita che mi ha reso pessimista. È scomparso in una mista improvvisato musicista. Richiedo un analista per me, per la mia scimmia. Simbolo sconvolto con i nervi fatti a pezzi. Vivo silenzioso nel mio mondo di successi. I miei amori, i miei affetti, la mia scuola e la mia strada. La mia vita fatta a pezzi, atterrati sotto casa. Altro che pace, ho la testa che scoppia. Altro che lucido, la mente rivolta ascolta. Non trovo nulla in cui valga la pena credere. Terra bruciata sterile e alle spalle cenere. Rapo per quei pochi che supportano il mio suono. Credono in me quanto io credo in loro. Ho una self music, ho sguardo perso nell'ignoto. Giro sotto i portici calmo quanto un maremoto. L'arco mi accompagna, il mio spirito guida. Se la mia bocca parla, la mia mente grida. La mente distante, le prospettive grigie. Basta soltanto puntare. L'arco mi accompagna, il mio spirito guida. Se la mia bocca parla, la mia mente grida. La mente distante, le prospettive grigie. Basta soltanto puntare. Periodo K.O. fra di me solo riflesso. La confusione in testa crea tempesta nel silenzio. Svanita quella voce che mi dice resta calmo. Cammino per la strada schivando ogni sguardo falso. Non importa di me, vi ringrazio lo stesso. Domandatevi perché poi vi do il peggio del peggio. Dedicata a voi che fate il doppio gioco. Chi mi vuole al rogo mi seguirà nel fuoco. Io solo come sempre non importa alcun parere. Affogo il mio dolore in ciò che tu non puoi vedere. Ogni notte la morte è soffocata dall'odio. Ogni istante che passa espande il suo territorio. Prendo fiato ed ho una data prefissata. Un regalo per Viraga, un Natale cannonata.